terzo anello, ad alta voce, Madame Bovary di Gustave Flaubert. Accadde una domenica di febbraio, un pomeriggio. Nevicava. Erano andati tutti, il signore e la signora Bovary, il signor Homais, il signor Léon, a visitare una filanda di lino in costruzione, a una mezza lega da Yonville, nella valle. Il farmacista s'era portato dietro Napoleon e Athalie per fargli fare un poco di moto e li accompagnava Justin con un gran carico d'ombrelli sulle spalle. Non c'era peraltro nulla di meno spettacolare di quello spettacolo. Un grande spiazzo vuoto in cui erano sparpagliate tra mucchi di sabbia e sassi alcune ruote di ingranaggio già arrugginite, circondava un lungo fabbricato rettangolare bucato da un'infinità di finestrini. La costruzione non era ancora ultimata, si poteva vedere il cielo attraverso la travatura del tetto. Attaccato alla trave del frontone, un fascio di paglia e spighe faceva schioccare al vento i suoi nastri tricolori. Homais parlava, illustrava alla compagnia la futura importanza di quello stabilimento, calcolava la resistenza dell'impiantito, lo spessore dei muri, e si rammaricava molto di non avere a disposizione una canna metrica come quella di cui disponeva il signor Binet per usi personali. Emma gli dava il braccio e si appoggiava un poco alla sua spalla, contemplando il disco del sole che irradiava in lontananza, attraverso la bruma, il suo accecante pallore. Ma, girando la testa, vide Charles. Fu come se lo vedesse per la prima volta. Era là, con il berretto calcato sino alle sopracciglia. Le sue grosse labbra tremolavano e questo aggiungeva qualcosa di stupido alla sua faccia. Persino la sua schiena tranquilla, era irritante a vedersi. Alla giovane donna parve di leggere scritta su quella redingote tutta la mediocrità del personaggio. E mentre lo osservava, assaporando nella propria irritazione una specie di depravata voluttà, Léon fece un passo avanti. Il freddo che lo sbiancava pareva depositare sulla sua faccia un più dolce languore. Tra la cravatta e il collo, il colletto della camicia un poco allentato lasciava vedere la pelle. La punta di un orecchio sporgeva fuori da una ciocca di capelli e quel suo grande occhio turchino, levato alle nuvole, Emma lo trovò più limpido e più bello dei laghi di montagna in cui si specchia il cielo. «Disgraziato!» si mise di colpo a gridare il farmacista e corse verso suo figlio che s'era precipitato in una pozza di calce per tingersi di bianco gli stivaletti. Ai rimproveri che gli piovevano addosso, Napoleon attaccò a strillare e intanto Justin cercava di asciugargli gli stivaletti con un pugno di paglia. Ma ci voleva un coltello. Charles offrì il suo. «Ah, gira con un coltello in tasca come i contadini», si disse Emma. Era ora di tornare a Yonville, gelava. La signora Bovary, quella sera, non andò dai vicini. E quando Charles fu uscito e si sentì sola, riprese quel confronto tra i due con la nitidezza d'una sensazione quasi immediata e con quel prolungamento della prospettiva che il ricordo fornisce alle cose. Fissando dal suo letto il chiaro divampare del fuoco, lei vedeva di nuovo, come laggiù, Léon, ritto, piegare con una mano il suo bastoncino contro il terreno e tenere con l'altra Athalie intenta a succhiare tranquillamente un ghiacciolo. Le pareva affascinante. Non poteva smettere di pensare a lui. Ricordò altri suoi atteggiamenti in altri giorni, frasi che lui aveva detto, e il suono della sua voce, il suo corpo, tutto il suo corpo. E ripeteva protendendo le labbra come in un bacio. «Sì, bello, bello. Non sarai innamorato. E di chi mai?» «Ma di me, certo, di me!» Tutte in una volta le insorsero davanti le prove. Il cuore le tremò. La fiamma del caminetto faceva fiottare sul soffitto un allegro chiarore. Lei si girò sulla schiena, stirando le braccia. E allora cominciò l'eterno lamento. Oh, se il cielo l'avesse voluto! Ma è davvero impossibile ormai! E chi lo impedirebbe? Quando Charles rincasò a mezzanotte, lei ebbe l'aria di svegliarsi in quel momento. Siccome lui fece rumore nello spogliarsi, arrivò a lamentarsi dell'emicrania. Poi gli chiese con indifferenza cosa fosse accaduto quella sera. «Il signor Léon se n'è salito in camera presto», disse Charles. Lei non poté trattenere un sorriso. S'addormentò con l'anima pervasa da un nuovo incanto. Il giorno dopo, sul far della notte, Emma ricevette la visita del merciaio Lheureux, un uomo abile quel bottegaio. Guascone di nascita, ma normanno d'elezione, univa alla facondia meridionale l'astuzia locale. Cortese sino alla più smaccata ossequiosità, stava sempre un poco chino sulle reni, la posizione di chi saluti o inviti gli era abituale. Dopo aver lasciato alla porta il cappello fasciato a lutto, posò sulla tavola uno scatolone verde e attaccò a dolersi con la signora, sia pure molto cerimoniosamente, per non avere ancora ottenuto sino a quel giorno la sua preziosa fiducia. Certo, era il primo a dirlo, una povera botteguccia come la sua non era fatta per attirare una signora elegante, e sottolineò l'aggettivo. Eppure la signora non aveva che da ordinare. Ci avrebbe pensato lui a farle avere quanto desiderava, merceria o biancheria, modisteria o novità. Lui, infatti, andava in città 4 volte al mese regolarmente ed era in relazione con le ditte migliori. Si poteva chiedere di lui ai 3 fratelli, alla Barba d'Oro, al Gran Selvaggio. Lo conoscevano come le loro tasche quelli. E così oggi lui si era permesso di venire di passaggio a mostrare alla signora qualche articoluccio di cui si trovava a disporre grazie a una rarissima occasione. e sciorinò fuori dal suo scatolone magico una mezza dozzina di colletti di pizzo. La signora Bovary li esaminò. «Non ho bisogno di nulla», disse. Allora Lheureux esibì delicatamente 3 sciarpette algerine, una quantità di aghi e spille inglesi, un paio di pantofoline di paglia e infine 4 portauovo al traforo eseguiti dai forzati. «Quanto vengono?» «Una vera miseria! Un'autentica miseria, ma non c'è mica fretta! Quando vorrete, quando vorrete! Non siamo ebrei!» Lei riflette per qualche attimo. Finì per ringraziare di nuovo Lheureux, che replicò senza prendersela. «E va bene, ci metteremo d'accordo un'altra volta. Con le signore riesco sempre a intendermela, tranne che con la mia, si intende!» Emma sorrise. «Voglio dire...» continuò lui nel tono più bonario possibile dopo la battuta, che non mi preoccupo del danaro. Sarei pronto a darvene anzi all'occorrenza. Lei ebbe un gesto di sorpresa. Non avrei mica bisogno di andare molto lontano per trovarvene del danaro. Potete farci conto, disse ancora lui vivacemente, ma sottovoce. E prese a chieder notizie del vecchio Tellier, il padrone del caffè francese, in quei giorni in cura da Charles. «Cos'ha dunque papà Tellier? Tossisce che fa venir giù la casa. Ho proprio paura che presto gli sarà più utile un cappotto d'abete che una maglietta di lana. Certo che ne ha fatte di mattane da giovane. È tutta gente, signora mia, senza un minimo principio d'ordine. Si è bruciato con l'acquavite. A ogni modo, non è mai piacevole vedere un conoscente andarsene così.» Mentre richiudeva il suo scatolone, allargò il discorso agli altri clienti del medico. «È il tempo, senza dubbio», disse, e guardava la finestra con la faccia scura. «È il tempo a portare tutti questi malanni. Anch'io, sapete, non mi sento mica troppo bene. Uno di questi giorni bisognerà proprio che mi decida a chiedere il parere di vostro marito. Ho certi dolori alla schiena. Comunque, adesso la faccio finita. Arrivederci, signora Bovary. A vostra disposizione, servitore umilissimo.» E chiuse dolcemente la porta dietro di sé. Emma si fece servire la cena in camera. Mangiò lentamente su un vassoio accanto al fuoco. Trovò tutto buono. «Sono stata veramente saggia», si diceva, pensando alle sciarpe. D'improvviso sentì un passo sulla scala. Era Léon. si alzò in fretta, afferrò il primo degli strofinacci da orlare ammucchiati in pila sul cassettone. Pareva indaffaratissima quando lui entrò. La conversazione languì. La signora Bovary la lasciava cadere ogni momento e lui si mostrava talmente impacciato. Seduto su un panchetto, accanto al camino, Leon girava e rigirava tra le dita l'astuccio d'avorio. Lei spingeva l'ago, oppure ogni tanto increspava con l'unghia le pieghe della tela. Lei non parlava. Lui taceva, imprigionato dal suo silenzio come lo sarebbe stato dalle sue parole. «Povero ragazzo», pensava lei. «Cos'è che le dispiace in me?» si domandava lui. E tuttavia Leon finì per dire che uno di quei giorni sarebbe dovuto andare a Rouen per faccende dello studio. «Il vostro abbonamento musicale è scaduto. Debbo rinnovarvelo?» «No», rispose lei. «Perché?» «Perché...» Stringendo le labbra, tirò una lunga gugliata di filo grigio. Quel lavoro irritava Leon. Le dita di Emma parevano scorticarsi sulle punte. Lui pensò a una frase galante, ma non volle rischiare. «Ci rinunciate allora», disse invece. «A cosa? Alla musica? Oh mio Dio, sì! Non ho forse la mia casa da tenere in ordine, mio marito a cui badare, mille cose, insomma, un'infinità di doveri che contano di più», disse lei vivacemente. E scoccò un'occhiata alla pendola. Charles era in ritardo. Allora volle farla preoccupata. Ripeté due o tre volte: «È un uomo così buono!» Il praticante di notaio era affezionato al signor Bovary, ma tutta quella tenerezza nei suoi riguardi costituì una sorpresa sgradevole per lui. A ogni modo le tenne dietro nelle lodi del marito, lodi che sentiva fare da chiunque, disse, e particolarmente dal farmacista. «Ah, è un bravo uomo!» riprese Emma. «Certo», riprese lui. E cominciò a parlare della signora Homais, la cui sciatteria forniva spesso loro un motivo d'allegria. «Ma cosa importa?» lo interruppe lei. «Una buona madre di famiglia non si preoccupa dei propri vestiti». Poi risprofondò nel suo silenzio. E fu così anche i giorni seguenti. I suoi discorsi, i suoi modi, tutto mutò. La si vide prendere a cuore la casa, andare regolarmente in chiesa, trattare con maggior severità la serva. Tolse Berto dalla balia. Quando aveva visite, se la faceva portare da Félicité e la spogliava per far vedere com'era bellina. Proclamava di adorare i bambini. La figlia era tutta la sua consolazione, tutta la sua gioia, tutta la sua passione. Accompagnava le carezze con grandi sfoghi lirici che a chiunque non fosse stato Yonvillese avrebbe ricordato puntualmente la sachette di Notre-Dame de Paris. Quando Charles rincasava, trovava le pantofole al caldo accanto al fuoco. I suoi panciotti ora non mancavano più di fodere, né di bottoni le sue camicie. Ed era un vero piacere contemplare nell'armadio le belle pile regolari dei berretti di cotone. Lei non era più restia come in passato a passeggiare in giardino. Acconsentiva sempre a tutto quel che le proponeva il marito, anche se non indovinava mai quei desideri cui si sottoponeva senza un mormorio. E quando Leon vedeva dopo mangiato il medico seduto davanti al fuoco, con le mani sul ventre, i piedi sugli alari, le guance congestionate dalla digestione, gli occhi umidi di benessere, con la bambina che strisciava sul tappeto e quella donna che lo andava a baciare in fronte, chinandosi sopra lo schienale della poltrona, il dubbio e lo sconforto erano inevitabili. «Pazzo che non sei altro!» diceva a se stesso il giovane di studio. «Come potresti mai arrivare sino a lei?» Lei gli apparve dunque tanto virtuosa e inaccessibile che ogni speranza, anche la più tenue, lo abbandonò. Ma proprio in conseguenza di una simile rinuncia, lui finì per collocarla in una sfera superiore. Per Leon lei si spogliò di tutte quelle attrattive carnali che gli erano negate per sempre. La sentì salire in alto, ancora più in alto nel suo cuore, sinché non se ne staccò al modo magnifico di un'apoteosi che si incela. Era uno di quei sentimenti puri che non contrastano con la normalità dell'esistenza. Si coltivano perché son rari. La loro perdita provocherebbe un dolore più forte della gioia che deriva dal loro possesso. Emma smagrì, le guance le si fecero pallide, la faccia le si allungò. Con quei capelli neri, con quei grandi occhi, con quel naso dritto, con quel suo incedere da uccello e sempre silenziosa adesso, non pareva attraversare la vita, sfiorandola appena la vaga impronta di una qualche predestinazione sublime sulla fronte. Era così triste, così calma. Così dolce e insieme così riservata che al suo fianco ci si sentiva prendere da un incanto glaciale. Il brivido che assale in una chiesa al mescolarsi del profumo dei fiori col freddo dei marmi. Nessuno riusciva a sottrarsi a una simile seduzione. Il farmacista diceva: «Ecco una vera donna di classe, non sfigurerebbe neppure in una sottoprefettura». Le borghesi ammiravano la sua economia. I clienti la sua gentilezza, i poveri la sua carità. E lei, invece, rigurgitava di brame, di colleri, di odi. Il corsetto dalle pieghe dritte nascondeva un cuore agitato e quelle labbra tanto pudiche si rifiutavan di raccontarne la tormenta. Era innamorata di Leon e proprio per questo cercava la solitudine per poter godere più liberamente della sua immagine. Ma quanto più si accorgeva del suo amore, tanto più lo respingeva per tenerlo celato, per diminuirlo. Avrebbe voluto che Leon intuisse, immaginava casi, catastrofi che potessero facilitarlo. A trattenerla era senza dubbio la pigrizia, oppure la paura, magari il pudore. Pensava di averlo ormai respinto troppo lontano. Era passato il gran momento, tutto era perduto. E poi l'orgoglio, la gioia di dirsi «sono virtuosa». Si guardava allo specchio assumendo le pose della rassegnazione e si sentiva un poco consolata del sacrificio che credeva di compiere. Allora appetiti della carne, avidità di danaro, malinconia della passione, tutto si confuse in un'unica sofferenza. E invece di stornarne la mente, lei vi si attaccava sempre più. Il dolore la eccitava. Lei non faceva che cercare le occasioni per stare male. Si irritava per un piatto mal servito o per una porta lasciata socchiusa, Piagnucolava per i velluti che non possedeva, per la felicità che non conosceva, per i sogni che puntava troppo in alto, per la casa che trovava angusta, ma così angusta. Ma quel che più l'irritava era constatare come Charles non avesse il minimo sentore del suo strazio. La convinzione del marito di renderla felice le pareva uno stupido insulto. Tutta quella tranquillità una manifestazione d'ingratitudine. Per chi dunque lei si comportava così bene? Non era forse lui l'ostacolo a ogni suo desiderio? La causa di ogni sua miseria? Il gancio aguzzo di quella catena complicata che la stringeva da tutte le parti? Finì presto per riversare su di lui solo il formicolare degli odi suscitati da tutti i suoi affanni. Ogni sforzo per diminuirlo serviva a esasperarlo quest'unico odio e l'inutile pena del tentativo si aggiungeva agli altri motivi di disperazione, contribuiva ad allontanarla maggiormente dal marito. La sua stessa mitezza la incitava alle ribellioni. La mediocrità dell'esistenza domestica le suggeriva fantasie fastose, la tenerezza coniugale sogni adulterini. Avrebbe voluto che Charles la battesse almeno una volta. Allora avrebbe avuto anche maggior diritto a detestarlo, a prendersi una vendetta. E le capitava di sussultare a certe ipotesi atroci che formulava la sua mente. Doveva proprio continuare a sorridere? Continuare a sentirsi ripetere che era felice? Continuare a fingere di esserlo? Lasciarlo credere? Tanta ipocrisia le rovesciava lo stomaco. L'assaliva la febbre di fuggirsene via con il suo Leon, lontano, da qualche parte, in capo al mondo, a tentare una nuova sorte. Ma subito nel suo animo si spalancava un'indefinibile voragine traboccante d'oscurità. D'altra parte, lui non mi ama più. Cosa fare? Quale aiuto posso aspettarmi? Quale conforto? Quale sollievo? Si sentiva a pezzi, affannata e abulica. Continuava a singhiozzare sommessamente e a versar lacrime su lacrime. Elsa Agalbato ha letto Madame Bovary di Gustave Flaubert.